ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Prima puntata. Era un sabato sera, la vigilia della festa di San Basilio, patrono del paese di Barunei. In lontananza risuonavano confusi rumori, qualche scoppio di razzo, un rullo di tamburo, grida di fanciulli, ma nella straducola, in pendio, selciata di grossi ciottoli ancora illuminata dal crepuscolo roseo, s'udiva solo la voce nasale di Don Simone de Cherchi. «Intanto il fanciullo è scomparso», diceva il vecchio nobile che stava seduto davanti alla porta della sua casa e discuteva con un altro vecchio, zio Cosimo Damiano, suocero d'un suo figlio. «Chi l'ha veduto? Dove è andato? Nessuno lo sa. La gente dubita che l'abbia ucciso il padre. E tutto questo perché non c'è più timor di Dio, più onestà. Ai miei tempi la gente non osava neppure figurarsi che un padre potesse uccidere il figlio. Timor di Dio, certo, la gente non ne ha più», ribatté zio Cosimo, la cui voce rassomigliava a quella di Don Simone. «Ma questo non vuol dire. La storia sacra persino ha esempi di calunnie terribili contro poveri innocenti. Il ragazzo scomparso, poi, il figlio di Santus, il pastore, era un vero diavoletto. A 13 anni rubava come un vecchio ladro e Santus non ne poteva più, lo ha bastonato. E il ragazzo è scomparso, se n'è andato in giro per il mondo. Prima di partire disse al vecchio pastore, compagno di suo padre, andrò come la piuma va per l'aria e non mi rivedrete più». Don Simone scuoteva la testa incredulo e guardava lontano, verso lo sfondo della strada. Una figurina nera si avanzava, rasentando i muri delle basse casette grigie e nere. Un'altra figurina di fanciulla paesana si delineava sullo sfondo giallognolo d'una porticina illuminata e pareva intenta alle chiacchiere dei due vecchi. Attraverso la porta spalancata della casa di Don Simone si vedeva un andito e in fondo all'andito un'altra porta con uno sfondo di bosco. La casa de Cherchi era antica, forse medioevale. La porta grande e nera con l'architrave a sesto acuto, il cornicione, i due balconcini di ferro la rendevano diversa dalle altre casette meschine del villaggio. Pareva una casa lacerata, malata, ma che conservasse una certa aria di grandezza ed anche di prepotenza. Quei muri scrostati che lasciavano vedere le pietre corrose, quella porta nera, tarlata, ricoverata sotto il suo arco come un nobile decaduto sotto il suo titolo, quel cornicione sul quale cresceva l'euforbia, quella coperta da letto, logora, lucida, di antico damasco verdognolo che pendeva melanconicamente da un balcone del piano superiore, avevano qualcosa di triste e di fiero ed anche di misterioso e richiamavano l'ammirazione dei paesani abituati a considerare la famiglia de Cherchi come la più antica e nobile del paese. Don Simone rassomigliava alla sua casa. Vestiva in borghese, ma conservava la berretta sarda e i bottoni d'oro al collo della camicia. Anche lui, cadente e fiero, alto e curvo, sdentato e con gli occhi neri, scintillanti, i capelli folti, candidissimi, la barba corta e bianca, a punta. Davano al suo viso olivastro, dal naso grande, i pomelli sporgenti, un risalto caratteristico, fra di patriarca e di vecchio soldato di ventura. E zio Cosimo Damiano, che conviveva coi de Cherchi, rassomigliava a Don Simone. La stessa statura, gli stessi capelli bianchi, gli stessi lineamenti, la stessa voce, ma un non so che di rozzo, di primitivo e il costume paesano rivelavano in lui il vecchio plebeo, il lavoratore umile e paziente, sul quale la lunga convivenza con un uomo superiore come Don Simone aveva operato una specie di suggestione fisica e morale. 10 giorni passarono e il ragazzo non tornò, continuava a raccontare. Allora il padre si mise in viaggio, andò fino ad Ozieri, andò fino alla Gallura. Incontrò un pastore e gli domandò: «Per caso hai veduto un ragazzo con gli occhi celesti e un neo sulla fronte?» «Ah, per Dio, sì, l'ho veduto. È servetto in uno stazzo della Gallura», rispose il pastore. Allora Santus, rassicurato, se ne tornò in paese. Ed ecco che ora la gente stupida va dicendo delle cose orribili. E la giustizia dà retta ai pettegolezzi delle donnicciole e il povero padre è perseguitato da tutti. Ora dicono che è ripartito in cerca del figlio. Don Simone scuoteva la testa e sorrideva un po' beffardo. Zio Cosimo era stato sempre un uomo ingenuo, ma senza offendersi per l'evidente ironia del vecchio nobile, il paesano domandò, animandosi: «Ma figlio di Sant'Antonio, perché ti ostini a pensare sempre male del prossimo?» L'altro cessò di sorridere, si fece serio, quasi cupo. «I tempi sono cattivi, non c'è timor di Dio e tutto è possibile ora. I giovani non credono in Dio, noi vecchi. Noi siamo come la pasta frolla, vedi? Così». E con la mano accennava a tirare qualcosa di molle, di frollo. «Lasciamo correre 30 giorni per un mese e tutto va a rotoli». «Questo forse è vero», esclamò zio Cosimo e cominciò a battere il suo bastone su un ciotolo e non parlò più. Don Simone lo guardò e sorrise di nuovo. «Io sono come la giustizia, penso sempre la peggio e spesso indovino. Ne vedremo se vivremo, Cosimo Damià». L'altro continuò a picchiare il bastone per terra ed entrambi, uno triste, l'altro sorridente, pensarono alla stessa cosa, o meglio, alla stessa persona. Intanto una donna anziana, avvolta in un lungo scialle nero frangiato e ricamato, dopo aver salito il pendio della strada, s'era fermata presso i due vecchi. «Dov'è Rosa?» domandò aprendo alquanto i lembi dello scialle. «Deve essere nel cortile con Annessa», rispose zio Cosimo. «Dio, che caldo, in chiesa si soffocava», riprese la donna, che era alta, con gli occhi neri cerchiati e il viso stretto da due bende di capelli che parevano di raso grigio. Zio Cosimo la guardò e scosse la testa. Così alta e cerea, col suo scialle nero, la sua figliuola diletta gli sembrava la Madonna addolorata. «In chiesa si soffocava», disse con lieve rimprovero. «È per questo che non tornavi più, che frugavi ancora laggiù». «Mi confessavo. Domani ci sarà la comunione generale», rispose semplicemente la donna. Poi s'avviò per entrare, ma prima si volse ancora e disse: «Paolo non è tornato. Non è tornato a quest'ora, non arriverà più per stasera. Ora prepareremo la cena. Che abbiamo da mangiare, Rachele?» domandò sbadigliando Don Simone. «Abbiamo ancora le trote, babbai, e poi friggeremo delle uova. Meno male non abbiamo ospiti». «Ah, possono ancora arrivare», esclamò zio Cosimo non senza amarezza. «L'albergo è povero, ma è ancora comodo per quelli che non vogliono pagare». «Avevamo le trotte, non lo ricordavo», esclamò Don Simone, rallegrandosi all'idea della buona cenetta. «E se arrivano ospiti, ce n'è anche per loro?» «Me lo ricordo, per la festa arrivavano molti ospiti. C'è stato un anno che ne abbiamo avuti 10 o 12. Ora la gente non va più alle feste, non vuol sentir più parlare di santi». «Adesso la gente è povera, Simone mio. Vive lo stesso anche senza feste. Anche la lepre corre sempre, sebbene non vada in chiesa», disse il vecchio nobile, cominciando a irritarsi per le contraddizioni di zio Cosimo. E mentre i due nonni continuavano la loro discussione, donna Rachele attraversò l'andito ed entrò nella camera in fondo, attigua alla cucina. L'ultimo barlume del crepuscolo penetrava ancora dalla finestra che guardava sull'orto. Mentre donna Rachele si levava e piegava lo scialle, una voce dispettosa disse: «Rachele, ma potresti accenderlo un lume? Mi lasciate solo, mi lasciate al buio come un morto!» «Zio, è ancora giorno e si sta più freschi senza lume!» Ella rispose con la sua voce dolce e le parole lente: «Adesso accendo subito!» «Annessa», disse poi affacciandosi all'uscio di cucina, «che staci ancora la farina? Smetti, è tardi. E Rosa dov'è?» «Eccola lì in cortile», rispose una voce velata e quasi flebile. «Ora finisco». Donna Rachele accese il lume e lo depose sulla grande tavola di quercia che nereggiava in fondo alla stanza tra l'uscio dell'andito e la finestra. E la vasta camera, alquanto bassa e affumicata, apparve ancora più triste alla luce giallognola del lume ad olio. Anche là dentro tutto era vecchio e cadente. Ma il canapè antico dalla stoffa lacerata, la tavola di quercia, l'armadio tarlato, la cassapanca scolpita, insomma, tutti i mobili conservavano nella loro miseria, nella loro vecchiaia, qualcosa di nobile e distinto. Su un lettuccio, in fondo alla camera, stava seduto, appoggiato ai cuscini di cotonina a quadrati bianchi e rossi, un vecchio asmatico che respirava penosamente. «Si sta freschi, sì, sì, si sta freschi», egli riprese a borbottare con voce ansante e dispettosa. «Potessi star fresco almeno. Annessa, figlia del demonio, se tu mi portassi almeno un po' d'acqua!» «Annessa, porta un po' d'acqua, zio Zua», pregò donna Rachele attraversando la cucina, ancora più vasta e affumicata della camera. La donna, che aveva avvicinato alla porta il canestro della farina, s'alzò, si scosse le vesti, prese la brocca dell'acqua e ne versò un bicchiere. «Annessa, la porti o no quest'acqua?» ripeteva il vecchio asmatico con voce quasi stridente. Annessa entrò, s'avvicinò al lettuccio, il vecchio bevette, la donna lo guardò. Mai figure umane s'erano rassomigliate meno di quei due. Ella era piccola e sottile, pareva una bambina. La luce del lume dava un tono di bronzo dorato al suo viso olivastro e rotondo, del quale la fossetta sul mento accresceva la grazia infantile. La bocca, un po' grande, dai denti bianchissimi, aveva una lieve espressione di beffa crudele, mentre gli occhi azzurri sotto le grandi palpebre livide erano dolci e tristi. Qualcosa di beffardo e di soave, un sorriso di vecchia cattiva e uno sguardo di bambina triste erano in quel viso di serva taciturna e malaticcia, la cui testa si piegava all'indietro quasi abbandonandosi al peso di un'enorme treccia biondastra attorcigliata sulla nuca. Il collo lungo e meno bruno del viso usciva nudo dalla camicia scollata. Il corsetto paesano si chiudeva su un piccolo seno e tutto era grazioso, agile, giovanile, attraente in quella donna della quale soltanto le mani lunghe e scarne svelavano l'età matura. La figura del vecchio asmatico ricordava invece qualche antico eremita moribondo in una caverna. Il suo viso, raggrinzito da una sofferenza intensa, dava l'idea di una maschera di cartapecora. Tutto era giallognolo e affumicato in quella figura triste e cupa. E il petto peloso e ansante, che la camicia slacciata lasciava scoperto, e i capelli arruffati, la barba giallastra, le mani nodose e tutte le membra che si disegnavano scheletriche sotto il lenzuolo. Avevano un brivido di angoscia e glielo diceva sempre: «Io vivo solo per tremare di dolore». Ogni cosa gli dava fastidio ed egli era di grande fastidio a tutti. Pareva vivesse solo per far pesare la sua sofferenza sugli altri. «Annessa», gemette mentre la donna si allontanava col bicchiere vuoto in mano, «chiudi la finestra. Non vedi quante zanzare? Così possano pungerti i diavoli come mi pungono le zanzare». Ma Annessa non rispose, non chiuse la finestra. Tornò in cucina, depose il bicchiere accanto alla brocca, poi Uscì nel cortile ed accese il fuoco in un angolo sotto la tettoia. D'estate, perché il calore ed il fumo non penetrassero nella camera ove giaceva il vecchio asmatico, ella cucinava fuori, in quell'angolo di tettoia trasformato in cucina. Una pace triste regnava nel cortile lungo e stretto, in gran parte ingombro di una catasta di legna da artere. La luna nuova, che cadeva sul cielo ancora biancastro, di là del muro sgretolato, illuminava l'angolo della tettoia. S'udivano voci lontane, scoppi di razzi, un suono di corno rauco ed incerto che tentava un motivo solenne. Annessa mise il treppiede nero sul fuoco e mentre donna Rachele andava nella dispensa per riempire d'olio la padella, una bambina di 6 o 7 anni, con un'enorme testa coperta di radi capelli biondastri, s'affacciò alla porticina socchiusa dell'orto. «Annessa, Annessa, vieni! Di qui si vedono bene i razzi!» gridò con una vocina di vecchia sdentata. «Rientra tu piuttosto, Rosa, è tardi! Ti morsicherà alle gambe qualche lucertola!» «Non è vero!» riprese la vocina un po' tremula. «Vieni, Annessa, vieni!» «No, ti ho detto rientra, ci sono anche le rane, lo sai bene!» La bambina entrò, s'avanzò paurosa fino alla tettoia. Un goffo vestitino rosso guarnito di merletti gialli rendeva più sgraziata la sua figurina deforme e più brutto il suo visino scialbo di vecchietta senza denti, schiacciato dalla fronte idrocefala, smisurata e sporgente. «Siedi lì», disse Annessa. «I razzi si vedono anche stando qui». Qualche razzo, infatti, attraversava come un cordone d'oro il cielo pallido e pareva volesse raggiungere la luna, poi d'un tratto scoppiava, dividendosi in 1000 scintille rosse, azzurre, violette. Rosa, seduta sul carro sarto in mezzo al cortile, fremeva di piacere e chinava la testa con la paura e la speranza che quella pioggia meravigliosa cadesse su di lei. «Almeno una di quelle scintille!» gridò chinando la fronte enorme, stendendo la manina. «Ne vorrei una, quella d'oro, deve essere una stella!» «Pazzerella!» disse la nonna, che ritornava con la padella colma d'olio. Annessa mise la padella sul treppiede e la dama rientrò per apparecchiare la tavola. «Cadono molto lontano!» riprese la bambina. «Sì, nel bosco! Dove sono le lucertole?» «Oh, più lontano, certo», rispose la donna che aveva cominciato a friggere le trote. «Ma dove più lontano? Nello stradale? Ti pare che qualcuno cada vicino al babbo mio? E se gli cade addosso?» «Chissà», disse Annessa pensierosa. «Credi tu, Rosa, che egli possa tornare stasera?» «Sì, io sì, lo credo», esclamò vivacemente la bambina. «E tu, Anna?» «Io non so», disse la donna già pentita d'aver parlato. «Egli torna quando vuole». «Egli è il padrone, vero? Egli è tanto forte, egli può comandare a tutti, vero?» interrogò Rosa, ma con accento che non ammetteva una risposta negativa. «Egli può fare quello che vuole, può fare anche da cattivo, vero? Nessuno lo castiga, vero?» «Vero, vero», ammise la donna con voce grave. Poi entrambe, la bambina sul carro, Annessa davanti al fuoco, tacquero, pensierose. «Annessa!» gridò d'un tratto Rosa. «Eccolo, viene, sento il passo del cavallo!» Ma l'altra scosse la testa. No, non era il passo del cavallo di Paolo De Cherchi. Ella lo conosceva bene, quel passo un po' cadenzato di cavallo che ritorna stanco dopo un lungo viaggio, eppure il passo di cavallo avvertito da Rosa si fermò davanti al portone. «Credo sia un ospite», disse Annessa con dispetto. «Speriamo sia il primo e l'ultimo». Ma donna Rachele uscì di nuovo nel cortile, porse ad Annessa alcune uova che teneva nel grembiule e disse con gioia: «Lo dicevo che non era tempo da disperare. Ecco un ospite. Bella notizia», rimbeccò l'altra. «Apri il portone, Annessa. Non è bella una festa se non si hanno ospiti in casa». La donna mise le uova accanto al fuoco e andò ad aprire.